la mia strada. Siena MC, evoluzione costante, ma il massimo rispetto a chi picchia pesante. Costa soffocante in questo giorno di pioggia, a volte flow alloggia, a volte flow sloggia. Dalla mia mente per buttarmi per terra, interviene la fonte ed è sicuro che mi afferra. Prendo il mio stile sulle righe di un foglio, guardando il tramonto, seduto su uno scoglio. Neglia da sfondo che mi dà l'ispirazione, roba per pochi e letti sull'azione. Senti questo suono, è già Mark che spinge, antibiotico trash sulle male lingue. Merda quotidiana sulle strade d'Imperia, prova a fotterla, è una cosa troppo seria. Ora quanti passi per passare l'antibiotico, ora quanti sguardi per guardare l'antibiotico. Tu sei la pedina di un trash, effetto domino, sono l'ultimo a cadere, l'ultimo microfono. Ora quanti passi per passare l'antibiotico, ora quanti sguardi per guardare l'antibiotico. Tu sei la pedina di un trash, effetto domino, sono l'ultimo a cadere, l'ultimo microfono. Io non ho sogni, ho bisogni elementari, sono solo nel mio letto, non riesco a scrollarmi di dosso. Questa mia fragile pelle, piedi piantati in terra, sputo sulle stelle, le spengono. Non toccate il mio tempo, devo bruciare il mondo, un secondo soltanto, prima che Dio mi fermi, fosse tutto calcolato. Io sono solo un altro zero, in culo il risultato. Ma è nato quella luna, dono senza queste ore. Se la notte mi circonda come una prigione, appena un raggio di luce entra nella mia stanza e vado dal buio, portando la speranza di spezzare la lenza di sto mondo finto. Lo straccio con le mani finché non ho istinto l'immagine e ci dipingo il posto, ma in realtà con gli stessi colori della mia fantasia. Ora quanti passi per passare l'antibiotico, ora quanti sguardi per guardare l'antibiotico. Tu sei la pedina di un trash, effetto domino, sono l'ultimo a cadere, l'ultimo microfono. Ora quanti passi per passare l'antibiotico, ora quanti sguardi per guardare l'antibiotico. Tu sei la pedina di un trash, effetto domino, sono l'ultimo a cadere, l'ultimo microfono. Ora quanti passi per passare l'antibiotico, ora quanti sguardi per guardare l'antibiotico. Tu sei la pedina di un trash, effetto domino, sono l'ultimo a cadere, l'ultimo microfono. Ora quanti passi per passare l'antibiotico, ora quanti sguardi per guardare l'antibiotico. Tu sei la pedina di un trash, effetto domino, sono l'ultimo a cadere, l'ultimo microfono.